Salva Danaio. Bentrovati da Roberta Pellegatta, 16 luglio 2013, sono le 12:08, è martedì e chi segue con fedeltà Salva Danaio sa che questa è la giornata dedicata ai temi del lavoro e di lavoro parleremo in diretta da qui alle 13 in compagnia degli esperti e in compagnia dei vostri interventi, delle vostre domande in diretta 800 24 00 24 per i messaggi 349 238 66. Continuiamo nel nostro racconto delle novità introdotte al decreto legge 76-2013 che è entrato in vigore il 28 giugno e che ora è in Parlamento per la conversione in legge, un decreto che si concentra tra l'altro sulle norme che regolano la flessibilità in entrata con l'obiettivo di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro, in particolare dei giovani, il cui tasso di disoccupazione ha da tempo superato la soglia di allarme. Per quelli che hanno dai 15 ai 24 anni siamo al 35,3%. Quindi urge correre ai ripari. Quindi a Salva Danaio oggi ci concentriamo su due contratti che interessano i più giovani. Il primo è lo strumento del tirocinio, il secondo è l'apprendistato. Per colmare un vuoto normativo, infatti, il decreto 76-2013 permette di continuare a stipulare fino alla fine del 2015 i contratti di tirocinio con le regole precedenti alla riforma Fornero, che aveva previsto un compenso minimo e un tetto alla durata. Per quanto riguarda l'apprendistato, poi diventa più facile prolungare questo tipo di contratti anche una volta ottenuta una qualifica professionale, sempre entro precisi limiti di tempo. Ne parleremo nel dettaglio, come sempre rispondendo alle vostre domande in diretta, con gli esperti. Uno è Alessandro Rotaporta, consulente del lavoro. Ben trovato. Buongiorno, grazie dell'invito. Ed è con noi anche Stefano Collilanzi, CEO di G-Group, dell'Agenzia per il Lavoro G-Group. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, sia che siate datori di lavoro, sia che siate dei lavoratori o dei giovani aspiranti lavoratori, avete dei dubbi su questi tipi di contratti, potete chiamarci all'800 24 00 24 o mandare un messaggio al 349 238 6666. Abbiamo anche una mail, salvadanaio@radio24.it, e poi siamo su Facebook e su Twitter. Allora, sentiamo in sintesi le novità che riguardano tirocini e apprendistato e poi torniamo insieme. Con il decreto legge numero 76 del 2013, il governo Letta è intervenuto in materia di lavoro, correggendo in più punti la rotta dell'ultima riforma Fornero. Tra gli aspetti più rilevanti del testo, che è entrato in vigore il 28 giugno scorso ed è attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge, ci sono alcune modifiche agli strumenti che dovrebbero agevolare la cosiddetta flessibilità in entrata, ovvero le assunzioni da parte delle aziende, in particolare dei giovani. È il caso, ad esempio, dei tirocini. La Fornero aveva fissato alcuni limiti di durata e di retribuzione, prevedendo per gli stage, spesso gratuiti, una retribuzione minima di 300 euro mensili. Non tutte le regioni, alle quali è affidata la disciplina di questi contratti, hanno però rispettato la scadenza di 6 mesi che la riforma prevedeva per adeguarsi alle nuove norme. La conseguenza sarebbe stata, di fatto, l'impossibilità di utilizzare questo istituto né nella nuova versione né in quella precedente, in particolare in molte zone del sud Italia. Il decreto interviene dando la possibilità, fino a tutto il 2015, di applicare ancora la vecchia modalità, colmando questo vuoto normativo. Qualche novità anche per l'apprendistato, di cui tanto si parla e su cui tante volte si è intervenuti negli ultimi anni. Su questo tipo di contratto, l'ultima riforma del lavoro riponeva molte aspettative, individuandolo come il principale veicolo per le nuove assunzioni di giovani. Il decreto introduce alcune linee guida, tra le quali una maggiore continuità, si legge nel testo, tra diverse forme di contratti di apprendistato. Diventerà possibile trasformare i contratti di apprendistato per la qualifica in contratti di apprendistato professionalizzanti. In sostanza, anche se il lavoratore consegue una qualifica, non diventa obbligatorio assumerlo subito in pianta stabile, ma è possibile prolungare l'apprendistato cambiandone la tipologia, sempre entro i limiti di tempo consentiti. queste le novità che tendono a creare posti di lavoro e formazione per i giovani. Chissà se ce la faremo, visto che appunto questa è un'urgenza. Noi segniamo un record negativo in Europa per quanto riguarda la disoccupazione giovanile. Alessandro Rotaporta, lo strumento dell'apprendistato esiste da anni, è conveniente per i datori di lavoro, è utile per i giovani che entrano nel mercato del lavoro, eppure è uno strumento che stenta a decollare. Come mai? Ma guardi, l'apprendistato purtroppo sconta un'evoluzione che ha interessato questo istituto negli ultimi anni molto contorta, perché prima del decreto legislativo 167 del 2011, che sarebbe il testo unico che regola questo contratto, c'era un rimbalzo di fatto di competenze tra la contrattazione nazionale e le regioni, e questo ha creato confusione su quella che è la materia cardine del contratto, che è la formazione. Il decreto 167 ha messo a posto alcune cose, nel senso che ha chiarito gli aspetti e le competenze formative, però molti contratti collettivi nazionali non hanno recepito le linee guida del testo unico, ci sono ancora dei problemi a livello appunto di formazione con le singole regioni, e quindi il decreto 76, che è stato menzionato nella scheda, cerca di correre un po' i ripari. E per le piccole e medie imprese, ricordiamolo, le novità sull'apprendistato riguardano sostanzialmente le piccole e le medie imprese. Cosa si sta cercando? Si sta cercando di forzare su un accordo Stato-Regioni perché vengano attuate per questa tipologia di aziende delle linee guida che possano snellire la gestione della formazione. Il rischio qual è? Il rischio è che abbiamo una normativa spezzatino, e quindi anche qui poi all'azienda non arriva quel messaggio di chiarezza che è quello che serve per far decollare in modo definitivo. Cioè, sostanzialmente per le aziende, e forse soprattutto per quelle medio-piccole, è un strumento troppo complicato? Ma sì, perché adesso anche l'intervento del decreto occupazione varato dal governo Letta, cioè, se da un punto di vista dell'intento è apprezzabile, perché comunque sia, se questa gestione della formazione avviene in modo più snello e quindi queste linee guida che la conferenza Stato-Regioni dovrebbe adottare dovrebbero andare in quel senso lì, perché si parla di un piano formativo semplificato che sarà obbligatorio solo per la formazione delle competenze, per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali, quindi lasciando da parte quelle trasversali e teoriche, quindi dovrebbe essere una semplificazione per l'impresa. Però intanto c'è l'auspicio che effettivamente la conferenza Stato-Regioni le adotti, e tra l'altro queste linee guida saranno da adottare entro il 30 settembre, se no le imprese potranno andare in ordine sparso e le regioni potranno andare in ordine sparso. Lei comprende che ci ritroviamo nella stessa situazione di prima, quindi se le linee guida non saranno adottate, ogni regione potrà fare da sé e ogni impresa potrà fare da sé, e secondo me uscirà fuori un guazzabuglio che non gioverà sicuramente al rilancio dell'istituto. Cioè, quindi l'intervento va bene, ma se poi si fanno i passaggi che il decreto prevede. Davvero. Poi faremo un po' di servizio vero, cioè spiegheremo perché il contratto d'apprendistato può essere utile, può servire, essere conveniente alle aziende, in che modo può servire ai giovani. Parleremo anche più nel dettaglio nei tirocini, ma prima vorrei interpellare Stefano Colli-Lanzi di G Group, perché l'osservatorio permanente sul lavoro di G Group ha svolto proprio un'indagine che riguarda gli effetti della riforma sul mercato del lavoro, da cui sono risultati, sono arrivati dati interessanti anche per quanto riguarda proprio l'apprendistato e il tirocinio, è così? Assolutamente sì, il campione di aziende che abbiamo risentito a 6 mesi dalla prima indagine conferma un atteggiamento abbastanza particolare, cioè che le aziende tutto sommato si sono adeguate alla riforma Fornero e tornano a dei comportamenti molto simili a prima della riforma, quando invece appena approvata la riforma c'era stato forse un qualche tipo di timido cambiamento. Il tema che emerge da questa survey un po' su tutte le questioni principali che la riforma Fornero ha toccato, quindi la flessibilità in entrata, la flessibilità in uscita, il lavoro dei giovani, quindi i contratti per i giovani, e poi l'outplacement, il supporto alla ricollocazione e le politiche attive, la sensazione, la percezione delle imprese è quello che non sia cambiato di fondo nulla, e che nella maggior parte dei casi appunto i comportamenti siano tornati quelli precedenti alla riforma Fornero. Forse quest'ultimo decreto ha aiutato anche questa percezione, perché in realtà c'è la maggior parte degli interventi abbastanza di piccolo cabotaggio fanno di fatto marcia indietro rispetto agli interventi della riforma Fornero. Sì, e più che novità vere e proprie, sono una sorta di passo indietro rispetto alla riforma Fornero, che quindi non possiamo definire dalla vostra ricerca né negativa né positiva, in qualche modo ininfluente? Sì, cioè, io trovo che sia abbastanza negativo il fatto che le imprese trovino sconveniente l'intervento del legislatore, tutto sommato, nella generalità dei casi, e di scarso impatto rispetto al contesto. Penso che non abbiamo ottenuto attraverso questi interventi nessun tipo di obiettivo. A me non pare che noi siamo in una situazione in cui possiamo permetterci di tenere le cose così come sono, cioè abbiamo un livello di produttività del lavoro al di là della crisi che è inferiore in termini di crescita del 30% rispetto a quello della Germania, questo a partire dal 1990 in poi, quando negli anni precedenti c'era stato un sostanziale allineamento. E se andiamo a vedere ci sono delle differenze marcate nel mercato del lavoro tedesco rispetto al mercato del lavoro italiano, rispetto a cui si nota che in Italia manca una visione, manca una direzione. Si fanno degli interventi sull'onda del breve termine e poi si fanno degli interventi qualche mese dopo per tornare indietro su quegli interventi del breve termine. Insomma. Sì, questo quello non è una sensazione, è quello che in effetti sta capitando. Dal vostro punto di vista cosa si dovrebbe fare per agevolare l'ingresso nel lavoro dei giovani? Parliamo oggi in modo particolare dei giovani. Sì. Ma intanto io penso che appunto per i giovani e per i non giovani si tratti per esempio sul tema della flessibilità in entrata e in uscita che la riforma Fornero ha cercato di affrontare e appunto di decidere una visione. No? Noi saremmo favorevoli a una visione in cui si possa dare centralità al contratto a tempo indeterminato, quindi in qualche modo, come voleva fare la riforma Fornero, migliorando le condizioni di attrattività del contratto a tempo indeterminato e migliorando quindi le condizioni di flessibilità in uscita, e d'altra parte invece limitare, cioè orientare gli strumenti di flessibilità in entrata sugli strumenti di buona flessibilità. Noi dobbiamo stare attenti a non trasformare la flessibilità in entrata in precarietà, e quindi dobbiamo lavorare per la flex security. Allora, gli strumenti che consentono di combinare flessibilità e sicurezza non sono tutti, il lavoro a progetto non lo consente, le partite IVA male utilizzate non lo consente, gli stage, anche i tirocini appunto, se utilizzati in modo reiterato per fare lavoro gratuito non lo consentono, il lavoro a tempo determinato in parte sì se non viene reiterato all'infinito, la somministrazione che prevede un'assistenza da parte dell'agenzia alla persona che ha un contratto a termine, anche nella continuità professionale, nella possibilità di unire diversi tipi di contratto, invece tende a costare di più all'azienda, ma a combinare la flessibilità per l'azienda con la sicurezza per il lavoratore. E quindi si possono definire degli orientamenti anche normativi che vadano appunto in una certa direzione piuttosto che in un'altra. La riforma Fornero ci ha provato, ha fatto mezzo passo, non ne ha fatto uno intero. Adesso mi pare che si stia facendo un quarto di passo indietro rispetto a quel mezzo passo. Un commento su questo anche da Alessandro Rotaporta? Ma guardi, secondo me la ricetta giusta, rimanendo sulle forme contrattuali che sono oggi disponibili, quindi concentriamoci pure sul discorso dei tirocini e dell'apprendistato, sarebbe forse di avere anche dei quadri normativi un po' più chiari. Come dicevo prima, abbiamo assistito negli ultimi anni a una sorta di indigestione normativa, e questo non fa che nuocere alla diffusione di quelli che dovrebbero essere i contratti che favoriscono l'inserimento dei giovani. Nel caso dell'apprendistato, ad esempio, anche la contrattualistica nazionale è rimasta abbastanza inerte nel recepire le direttive del testo unico, perché pensiamo che solo un terzo dei contratti collettivi nazionali ha recepito la disciplina della tipologia di apprendistato per l'acquisizione del diploma, e addirittura solo un quinto ha recepito ad oggi la disciplina per l'apprendistato di alta formazione. Quindi dare a troppi soggetti la gestione di un istituto sicuramente non riesce a incentivarlo, anzi lo penalizza, perché poi l'azienda non capisce più di chi sono le competenze. Quindi riportare l'apprendistato con delle caratteristiche, soprattutto per la parte formativa, che è quella preponderante nel contratto, con delle caratteristiche uguali o comunque diffuse in modo omogeneo, quello sicuramente può portare un rilancio dell'istituto. Anche i tirocini abbiamo alcune regioni dove sono stati regolamentati, altri che grazie allo sblocco del decreto occupazione seguiranno le vecchie regole dove le regioni non hanno recepito le linee guida, quindi si comprende che il quadro è molto confusionario e la confusione non aiuta sicuramente a sviluppare l'occupazione in un quadro economico già difficile, ricordiamolo. Quindi io direi semplificazione al massimo e questo sarà sicuramente d'aiuto a far partire questi contratti. Allora, cerchiamo di farla già qui alla radio, Radio 24, questa semplificazione, perché è vero che il quadro è piuttosto confuso, però al momento è assolutamente possibile stipulare dei contratti di apprendistato e naturalmente poi anche quelli di tirocinio, i cosiddetti stage. Tornando all'apprendistato, Alessandro Rottaporta, perché comunque da sempre è considerato, cioè, o comunque si auspica che sia il principale veicolo per le nuove assunzioni di giovani, perché ogni governo poi parla sempre, punta sempre sullo strumento dell'apprendistato, che deve essere chiarito, che deve essere insomma incentivato. Ma allora, ricordiamo che intanto l'apprendistato con appunto il testo unico del 2011 è un contratto a tempo indeterminato, quindi è una forma che prevede un periodo di formazione che può essere di un massimo di 3 anni, 5 per le qualifiche artigiane, poi lì ci sono i contratti collettivi che disciplinano le diverse durate, e quindi perché è importante? Perché consente all'azienda un risparmio contributivo, perché per le microimprese la contribuzione durante gli anni di apprendistato è praticamente a zero, è un 1,61%, mentre invece per le aziende più grandi è del 10%, quindi un abbattimento di quasi o anche di più del 30% della contribuzione normale, quindi l'azienda ha un vantaggio e nello stesso tempo questo vantaggio viene concesso perché l'azienda deve erogare la formazione seguendo i piani formativi che sono disciplinati dai contratti nazionali. Quindi in realtà dal punto di vista normativo dovrebbe essere un contratto molto semplice, poi si va a scontrare con appunto le difficoltà di cui dicevamo prima, però le potenzialità ci sono. Ricordiamo ad esempio l'apprendistato professionalizzante, cioè quello volto all'acquisizione di una qualifica professionale, può essere riservato con soggetti fino a 29 anni di età, quindi fino a 30 anni non compiuti, per cui anche la platea è importante. Sentiamo Federico da Milano, ci ha raggiunto all'800 24 00 24. Federico, buongiorno. Sì, buongiorno. Senti, io conosco bene il mondo industriale tedesco perché vendo macchinari speciali per l'assemblaggio automatico progettati e costruiti in Italia in Germania, quindi ho contatti molto stretti con i loro tecnici. Allora, loro hanno un sistema di apprendistato estremamente efficiente. In primo luogo è assolutamente autonomo, ogni land, ogni zona decide per sé. Quindi organizza, struttura come vuole. Comunque l'apprendista là fa 2 o 3 giorni a scuola e gli altri 2 o 3 giorni in officina a lavorare. In officina l'impresa poi comunica alla scuola quello che fa fare l'apprendista, quindi l'apprendista fa la pratica in officina e poi riceve dalla scuola il supporto teorico necessario, quindi matematica eccetera, per la pratica che ha svolto. Però sempre con grandissima autonomia. Io qua ho sentito, qui ognuno fa quello che vuole, ecco, loro da quasi sempre fanno così, fanno quello che serve all'impresa. E al territorio. E al territorio, esatto, modulato su quello che fa il servitore sul territorio, su quello che serve all'impresa. Mi sembra che l'industria tedesca abbia una reputazione tale da essere seguita su questo percorso, anche perché se lo facciamo abbiamo una buona opportunità adesso, perché adesso col sinistrismo dilagante anche da loro tendono a privilegiare un pochino più la cultura dell'aria fritta, no? Quindi l'umanesimo c'è da più che del fare, quindi sono orientati a fare scuole unificate, medie superiori unificate, cose di questo genere, quindi probabilmente perderanno in prospettiva questo vantaggio competitivo. Se noi invece facciamo una svolta nella loro direzione con la nostra inventiva, forse riusciamo a recuperare qualcosa. E la ringrazio, Federico. Un commento dal nostro consulente del lavoro. Ma sì, ovviamente lì si parla di un'alternanza secca, quindi il modello tedesco, alternanza secca scuola-lavoro, mentre invece da noi come funziona? Funziona che l'azienda assume il giovane in azienda, poi a seconda delle regole del contratto nazionale e della regione deve andare ad iscriverlo a un'agenzia formativa, può anche svolgere, se il contratto lo prevede, la formazione interna, se la regione organizza i corsi lo manda alla regione, altrimenti se non fa la formazione interna dovrà appoggiarsi l'azienda a un'agenzia formativa, quindi pagare per dare questa formazione di base all'apprendista, quindi c'è un piano, vede che è molto più complessa la gestione, e questo forse è uno degli aspetti che scoraggia l'utilizzo di questo contratto, che potenzialmente invece potrebbe essere molto valido. Bentornati a Salva Danaio, oggi è martedì e il martedì si affrontano le tematiche del lavoro, in particolare oggi apprendistato e tirocini, quindi ci occupiamo degli strumenti pensati per i giovani, augurandoci insomma che di lavoro per i ragazzi ne arrivi sempre di più e che le modifiche introdotte al decreto legge del governo Letta il 76-2013 riescano ad incentivare le assunzioni, l'ingresso nel mondo del lavoro dei ragazzi, il cui tasso di disoccupazione resta sempre più alto in Europa. Vero è che molto, come stiamo dicendo oggi in trasmissione, resta da fare. Sono molto scettici anche gli ascoltatori che ci stanno raggiungendo via sms al 349-238-6666. Qualcuno scrive: tutti si domandano come mai non si usa l'apprendistato, ma nessuno si è accorto che non c'è lavoro. Sono sconcertato, scrive Aldo da Bergamo. Francesco dice: peccato che la parte di formazione degli apprendisti sia una buffonata inutile, una vera perdita di tempo, lo sanno tutti, ma nessuno agisce. A me piacerebbe avere anche la testimonianza di qualche giovane che sta lavorando con un contratto di apprendistato, o di qualche datore di lavoro che sta usufruendo di questo contratto. Potrete chiamarci all'800 24 00 24, oppure ripeto il numero per gli sms, il 349 238 6666. Un altro ascoltatore ci scrive, in riferimento a quanto ci ha detto poco fa un altro ascoltatore: è vero, il praticantato tedesco è il massimo in assoluto, bisognerebbe che fosse semplice così, c'è un vero controllo formativo e non solo un risparmio per il datore di lavoro, che spesso è troppo piccolo. Tra poco parliamo anche degli stage, prima sentiamo Peter dalla provincia di Alessandria. Sì, buongiorno. Ascolti, qualcosa hanno già anticipato gli altri ascoltatori con gli sms, comunque il discorso, per sommi capi, apprendista per fare cosa? Nessuno insegna niente a nessuno, si prendono semplicemente perché costano molto meno, ci sono sgravi contributivi eccetera, vengono messi a fare il lavoro che fanno tutti gli altri, che è lavoro non qualificato, commessi generici, magazzinieri generici. Qualche anno fa, adesso non ne ho più sentito parlare, veniva richiesta l'età massima di 29 anni anche nel trasporto per poter fare l'apprendista camionista, che è una cosa ridicola, perché poi lo cercavano esperto che conoscesse le strade. Quindi sono parole campate in aria, non portano da nessuna parte. L'apprendista servirebbe se ci fosse una produzione di un qualche tipo da imparare. Ma per fare cosa l'apprendista? L'apprendista muratore? A fare il manovale come fanno i manovali di 40 anni. Sono tutte semplicemente un modo per pagare di meno al lavoratore. Sì, perché in effetti, la ringrazio Peter, perché in effetti l'apprendista viene pagato meno rispetto, può essere pagato, non è un obbligo, può essere pagato meno rispetto a un lavoratore adibito alle stesse mansioni, può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria, è così, dottor Rotaporta? Infatti possono, in virtù di quello che prevede la legge, possono prevedere un sottoinquadramento che è quindi a livelli inferiori rispetto a quello che si va a conseguire alla fine del periodo di formazione, oppure in maniera percentuale rispetto appunto alla retribuzione finale al periodo di formazione. Io solo, se mi è concesso, una breve considerazione di quello che hanno detto gli ascoltatori, ma sicuramente le opinioni che ho ascoltato sono più che legittime, cioè il momento è critico e quindi se di lavoro non ce n'è neanche per gli apprendisti, però nello stesso tempo se non si fa neanche nulla per migliorare quello che dal punto di vista normativo è migliorabile, anche magari quelle poche occasioni vengono disperse. In merito invece all'osservazione dell'ultimo ascoltatore, l'apprendista per fare cosa? Ma l'apprendistato deriva da una legge del 1955 e il vecchio apprendistato era proprio l'apprendista di bottega che andava e imparava. Poi se ci sono degli abusi, come purtroppo non lo nascondiamo, ci sono e ci sono anche però delle direttive del Ministero del Lavoro, delle circolari che fanno disconoscere l'apprendistato, quindi se c'è un accertamento ispettivo e gli ispettori rilevano che quando questo apprendistato la formazione non viene svolta, non c'è il tutore o quant'altro, al verificarsi di determinate inadempienze l'apprendistato non solo viene annullato, ma il datore di lavoro restituisce quello che non ha pagato di contributi e paga altrettanto di sanzioni, quindi c'è una sanzione che è pari al 100% dei contributi risparmiati, per cui le sanzioni sono molto forti. Poi purtroppo gli abusi ci sono su tutte le forme contrattuali, quello è un fenomeno che va sicuramente arginato e che esiste, però c'è lo spirito, è nobile, perché sennò altrimenti svuotiamo l'apprendistato di qualsiasi finalità. Quanto può durare un apprendistato? L'apprendistato può durare 3 anni, 3 anni massimi, 5 per le qualifiche artigiane che devono essere individuate dai contratti collettivi nazionali, quindi questo non significa che l'apprendistato debba durare 3 anni e 5 solo nei settori dell'artigianato, può durare 5 anni anche in settori diversi dall'artigianato ma dove il contratto individua una qualifica che richiede un periodo tipico delle qualifiche artigiane, quindi un periodo più lungo di formazione. Una volta concluso il contratto di apprendistato, poi il lavoratore viene assunto con un normale contratto a tempo indeterminato, e così se vuole continuare a lavorare in quell'azienda. Ma l'assunzione, come dicevo prima, decorre da quando il dipendente entra in azienda, quindi il giovane che viene assunto col contratto ha un contratto a tempo indeterminato, per cui l'unica differenza rispetto a un contratto a tempo indeterminato, chiamiamolo ordinario, quindi non di apprendistato, è che il datore di lavoro al termine del periodo di formazione ha la facoltà di recedere dal contratto, questo lo prevede il Codice Civile. La riforma Fornero, per evitare appunto gli abusi di quelle aziende che assumevano per godere solo dei vantaggi contributivi e poi alla fine del periodo di formazione interrompevano l'apprendistato, ha introdotto, cosa che peraltro già esisteva in alcuni contratti nazionali, ha introdotto delle percentuali di stabilizzazione, ovvero se l'azienda non stabilizza al termine del periodo di formazione un minimo di apprendisti, che in questo diciamo arco temporale è il 30%, se non viene stabilizzato, non opera quelle stabilizzazioni, non può ricorrere all'assunzione di nuovi apprendisti, quindi in quel senso lì quell'argine può anche essere letto in modo positivo, perché diciamo che porta ad escludere degli abusi. Ora però c'è la possibilità, grazie appunto a questo nuovo decreto legge, di prolungare i contratti di apprendistato, da quello del primo tipo, che è l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, a quello professionalizzante. Sì, c'è la possibilità, il decreto 76 dà la possibilità di convertire i rapporti di apprendistato appunto per l'acquisizione del diploma in contratti di apprendistato, quello di mestiere, quindi per l'acquisizione della qualifica professionale, proprio per dare una chance in più, un appeal in più alle aziende per sfruttare l'istituto, indubbiamente. Stefano Colli Lanzi, dall'indagine del vostro osservatorio, dell'osservatorio di IG Group, cosa risulta per quanto riguarda l'apprendistato? Risulta un po' quello che anche gli ascoltatori dicevano, cioè c'è perplessità, si utilizza poco l'apprendistato, le aziende stesse riescono a utilizzarlo poco. A mio parere c'è assolutamente il problema della semplificazione di cui si parlava, che è assolutamente un punto cardine. Direi che però bisogna stare attenti, perché c'è un problema di chiarezza anche qui, di direzione, no? L'apprendistato è un contratto che appunto funziona in Germania perché è pensato come uno strumento complementare ai percorsi formativi anche scolastici, cioè soprattutto per quel che riguarda l'apprendistato, diciamo, per i più giovani. Quindi è un contratto che è fondato sulla formazione, non è un contratto flessibile, è un contratto a medio termine, è un contratto che impegna l'azienda e la persona in un impegno reciproco, appunto, importante. E la prima difficoltà che abbiamo nell'utilizzo dello strumento è che persone e azienda capiscano questa cosa, cioè colgano l'importanza di questa cosa. Non è semplice, è più semplice utilizzare contratti più flessibili, più leggeri, no? Quindi se noi le complicazioni burocratiche leggiamo come complicazioni, siamo d'accordo, ma se leggiamo come complicazione il fatto di dover fare formazione, questo purtroppo è insito nello strumento. Allora, cosa pensiamo? Pensiamo che lo strumento debba essere reso davvero più semplice per orientare aziende e persone a fare percorsi formativi seri e veri. Per esempio in Germania il costo, cioè la retribuzione dell'apprendista è attorno al 30% dei minimi retributivi normali. In tutta Europa è molto più basso del 70% del nostro contratto. Io temo che in Italia ci sia ancora un po' una confusione, no? Tra il contratto di inserimento e il contratto di apprendistato. Un conto è incentivare, no, assunzioni a più basso costo per giovani che, appunto, come diceva l'ascoltatore prima, sono già in grado di dare la loro prestazione all'azienda. Un conto invece è ipotizzare un contratto in cui la componente formativa sia centrale. Da questo punto di vista certi messaggi volti alla semplificazione che tendono a tagliare la formazione lasciano sconcertati, perché non fanno più capire, no, quale sia effettivamente lo scopo dello strumento. Nel frattempo un'ascoltatrice, Teresa, via SMS ci scrive: ma gli stage devono essere retribuiti o no? Quindi parliamo anche del tirocinio in questa puntata complicatissima, proprio per queste norme che si accavallano creando confusione. Alessandro Rotaporta, la riforma Fornero aveva fatto in modo che anche i tirocinanti, anche gli stagisti avessero, insomma, una retribuzione mensile, aveva stabilito un minimo? Sì, aveva stabilito che appunto gli apprendisti avessero un compenso, quindi fossero monetizzati, e poi questa indicazione è stata raccolta dall'accordo Stato-Regioni del 24 gennaio, che ha dettato appunto le linee guida in materia di tirocini, e hanno la conferenza Stato-Regioni in questo accordo ha stabilito un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, quindi è stato messo un tetto minimo di compenso che prima non esisteva, quindi lo stage poteva essere completamente gratuito. Sì, poteva essere completamente gratuito, e invece con l'accordo Stato-Regioni non è più possibile attivare tirocini in modo totalmente gratuito. Ricordiamo che il tirocinio, a differenza dell'apprendistato, non è un rapporto di lavoro, è quindi un percorso di una misura formativa di politica attiva che deve appunto creare un contatto tra il soggetto ospitante, quindi tra l'azienda e il tirocinante, però non è un rapporto di lavoro, è una finalità, diciamo, di collegamento tra azienda e potenziale lavoratore in un futuro. Certo, quindi non comporta obblighi retributivi, previdenziali, non obbliga l'azienda ad assumere, un'esperienza che il giovane fa in un ambiente di lavoro, acquisisce un'esperienza pratica, l'azienda dal canto suo conosce potenziali collaboratori da inserire in futuro, quindi prima poteva essere gratuito, poi la Fornero è intervenuta, ha detto no, date a questi ragazzi almeno 300 euro al mese, ma attenzione, in qualche modo ora si ritorna indietro, nel senso che proprio attraverso questo decreto si dà la possibilità di instaurare dei tirocini con le vecchie regole fino alla fine del 2015, Alessandro Rotaporta. Quindi di nuovo si può far fare uno stage gratuito. Ma sì, perché qui purtroppo il tirocinio in questo caso paga lo scotto dell'inerzia della maggior parte delle regioni che non sono andate a recepire le linee guida dettate dalla conferenza Stato-Regioni, cioè quelle linee guida dovevano essere recepite a livello regionale, pochissime regioni le hanno recepite, e quindi adesso per tappare la falla il decreto Letta è andato a ripristinare per quelle regioni dove non c'è stato recepimento la vecchia disciplina della famosa legge Treu, aumentando di un mese le durate che quella legge prevedeva. Quindi, come dicevo prima, purtroppo ci troveremo una commistione di alcune regioni che viaggeranno su un percorso e altre che viaggeranno con altre regole. Quindi abbiamo risposto alla nostra ascoltatrice, non è stata una risposta semplice, comunque gli stage devono essere per forza retribuiti, no, sì, no, ci sono tre risposte, insomma. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta, quello per i messaggi è il 349 238 6666. Roberto da Genova, buongiorno. Io sono, complimenti dalla trasmissione prima di tutto. Grazie. Io sono un impresario, ho un piccolo impresario, siamo in quattro dipendenti. Il discorso dello stage, anche io quando ero diciamo giovane ho fatto lo stage di 2 anni, di 3 mesi in una ditta del settore. Il problema non è questo, il problema è che è vero che ti fanno pagare meno contributi, è vero che il dipendente... Ah, sta parlando dell'apprendistato, ha fatto l'apprendista. Dell'apprendistato. Il fatto che con gli studi di settore, tu se hai un apprendista e tu hai un operaio, ti fanno pagare le tasse allo stesso modo. Io non ho la possibilità di avere 2 apprendisti perché secondo loro guadagno troppo. Perché mi vanno sugli studi di settore, quello che è la cosa buffa, perché io invece di lavorare più ore, più tempo, più giorni, io vorrei avere una persona che mi dà una mano, non ho la possibilità, se no mi fanno pagare le tasse, perché dicono mi fanno pagare più tasse e mi dicono che io guadagno di più, perché l'operaio mi fa guadagnare di più, e quello l'ho sbagliato, perché tu un ragazzo di quel tipo lì, che ha 18-20 anni, è lì che non sa neanche tenere, nel mio caso, un trapano in mano, un cacciavite in mano, e bisogna insegnargli tutte queste cose, e è tempo che perdi te. La ringrazio, Roberto. Da Genova spostiamoci alla provincia di Lecco, dove ci chiama Alessio. Alessio, buongiorno. Buongiorno a lei. Io ho una società di ingegneria e di progettazione, volevo portare un esempio, diciamo, positivo, in parte, per quanto riguarda l'utilizzo dello strumento dei neolaureati assunti come apprendisti impiegati tecnici appena neolaureati, tipicamente ingegneria piuttosto che ingegneria meccanica, ambientale o laureati in scienze economiche, sempre legati al mondo green, che alla fine del percorso, tipicamente dei 2 anni per quanto riguarda il contratto del commercio, terziario commercio e servizi, sono entrati nel nostro gruppo e devo dire che ho trovato gli elementi positivi. Sono d'accordo con anche altri che non sono intervenuti che sì, ecco, il problema è il programma formativo, sono degli elementi, degli interventi veramente, oserei dire banali, veramente banali, che non danno valore aggiunto. Noi abbiamo la fortuna di poter fare anche la formazione on the job, diciamo così, registrata e quant'altro, interna, che è quella che ci serve, e alla fine di questi 2 anni abbiamo sempre raggiunto fino ad oggi delle specializzazioni dei ragazzi estremamente motivati e quant'altro, soprattutto in questo momento. Tenga presente che io parto personalmente dal principio che per avere certezze devi dar sicurezza, e oggi dobbiamo dare ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, io non sono vecchio, diciamo così, 45 anni per carità, ho iniziato da solo, bisogna dare questa serenità, la serenità del posto di lavoro, con o meno difficoltà, con la giusta retribuzione. Questo vuole essere il mio messaggio. Una piccola nota, ecco, secondo me abbiamo fatto 20 passi indietro per quanto riguarda i contratti a progetto, di cui sicuramente viene stato un abuso, ma trovare un sistema di contratti con la stessa flessibilità, con la stessa economicità anche per l'imprenditore, però piuttosto che niente, meglio piuttosto, si dice dalla mia parte. E i ragazzi hanno bisogno di questo, lo dico veramente col cuore, credendoci molto nei giovani. Ringrazio, grazie anche ad Alessio. Spostiamoci nella provincia di Trento per sentire Massimo. Pronto? Sì, buongiorno, ciao, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io volevo parlarvi dell'aspetto molto più formativo, nel senso che io mi occupo proprio di questo, del raccordo tra la formazione e praticamente l'azienda. In Trentino il contratto dell'apprendistato è particolare, nel senso che è stato deciso dall'Agenzia del Lavoro locale di dare ai centri di formazione professionale l'onere e l'onore, insomma, di occuparsi della formazione degli apprendisti. Quindi praticamente noi seguiamo come ente di formazione sia la formazione che viene fatta presso il nostro ente per le aziende e la formazione che viene fatta in azienda direttamente dalle aziende per gli apprendisti. E il mondo è veramente variegato, nel senso che le aziende che capiscono che la formazione è una risorsa per loro e sono quelle che la fanno anche veramente e che ci credono per formare un ragazzo che esce dalle scuole per renderlo un operaio migliore per la propria azienda. Le aziende invece che fanno finta, come si dice, di fare formazione tenendo l'apprendista e avendo il beneficio dei contributi, sono quelle che si lamentano anche di più del vincolo dell'alternanza, diciamo, formazione-lavoro. Quindi secondo me sta in mano all'azienda la formazione, in quanto futuro anche dell'azienda, in quanto anche intelligenza di investire su una persona del tempo, possa diventare un buon operaio. Ecco, quindi la formazione diventa una chiave, non deve diventare un peso, insomma. Va bene, grazie mille anche a Massimo della provincia di Trento. Sto prendendo i nostri ascoltatori uno dopo l'altro per permettere davvero a tutti di parlare, in modo poi da avere i commenti dei nostri ospiti, che ricordo sono Alessandro Rotaporta, consulente del lavoro, poi abbiamo Stefano Collilanzi, CEO di G-Group, dell'agenzia per il lavoro di G-Group. Arrivano anche domande per quanto riguardano gli stage e i tirocini, perché stiamo parlando di tirocinio e di apprendistato. E Stefano Collilanzi, dopo la riforma Fornero, che in qualche modo ha imposto una retribuzione anche per gli stage e anche un tetto di durata, si è avuto una flessione, vero, dell'uso di questi strumenti da parte delle aziende, dalla vostra indagine? Sì, c'è stata una certa flessione, non così rilevante in realtà, quindi nell'ambito sempre di numeri molto, molto vicini, a testimonianza del fatto che appunto poi questi interventi hanno un impatto relativo. Penso che sia più importante l'intervento fatto precedentemente, cioè sulla durata del tirocinio, perché nel caso del tirocinio, a mio parere, la cosa da evitare appunto è l'abuso anche qui, cioè che si utilizzi il tirocinio per prorogare all'infinito, no, un rapporto di lavoro tendenzialmente gratuito o a bassissimo costo. Obiettivamente, che il tirocinio abbia una durata limitata e che abbia una retribuzione minima, solamente lo trovo sensato e civile. Va bene, vorrei rispondere a Federico a Treviso, perché siamo davvero in chiusura, che dice per quanto riguarda lo stage universitario, il tutor aziendale deve essere un dipendente o anche un collaboratore dell'azienda? Rotaporta? Ma bisogna scendere un attimino nel dettaglio, però comunque deve essere una persona che deve essere comunque inserita in azienda, perché comunque sia per fare da tutor deve far parte dell'organico del soggetto ospitante. Adesso poi bisognerebbe scendere un attimino nei dettagli. Sentiamo anche Gianni da Biella, velocemente, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io dovrei assumere un giovane di 25 anni per un apprendistato qualificante, però il tutor aziendale si è dimesso. Allora, posso assumerlo contemporaneamente con l'impegno di formare un nuovo tutor, oppure devo passare prima per un tramite stage? Grazie Gianni. Alessandro Rotaporta, sentito? No, rispondere velocemente, anche qui è un po' complicato, ma il tutor, se il tutor che seguiva l'apprendista si è dimesso, ci vuole una persona in azienda che abbia gli elementi qualificanti per poter fare il tutor, o può farlo anche direttamente il titolare, quindi bisogna comunicare all'apprendista che è cambiato il tutor, ovviamente mettendo una persona che abbia le caratteristiche per poterlo fare. Mi scuso con Claudio da Vicenza, non abbiamo più tempo, ringrazio i nostri ospiti, il consulente del lavoro Alessandro Rotaporta e Stefano Collilanzi di G-Group, per essere stati con noi. Ringrazio anche Marco Lombardo in redazione, Filippo Aureggi in regia. Salvadanaio torna domani alla stessa ora. Una buona giornata da Roberta Pellegatta.